in due parole, l'enorme falsa vuole entrare nel vostro tetto, beccarvi la consorte, sfondare la cassaforte, e sconquassare biglietto. Guardi qua! Già le scritto un biglietto. Ma quel messaggio detto ricusai. Ricusai. Badate a voi. Badate. Volta le occhiette a tutte, che io non ve le ho brutte, voi me le ho maritate. Tutte, tutte, tutte, tutte. La corona che adorna da te oggi il chiome su voi già spunta. Come sarebbe a dir? Le cose. Brutta parola! Vai, cavaliere! Sorvegliero la moglie, sorvegliero il messere, salvar voi i beni miei dagli affitti di altrui. Ma lei? È lui? E lei? È lui? E lei? E lui? Vecchio come se, guai, che vi ami fatti tuoi. Forte e geloso, poi, zitto, andiamo a noi.